This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Beh, buonasera a tutti, anche questo giovedì sera siete in compagnia di This Is Not An Exit, in compagnia del Dottor Scarpa, benvenuto, bentornato. Grazie Babe, torniamo dopo le... per me, per quanto mi riguarda, torno dopo le ferie, insomma abbastanza lunghe, no? Vabbè, ferie per modo di dire, poi alla fine... Una pausa per lungo. Una pausa, sì, per la radio, perché al lavoro purtroppo bisogna andarci, insomma. E quindi niente, dai, ci vediamo felicemente insieme dopo 3 mesi. Più o meno. Felicemente, rumorosamente insieme. Sì. Come sempre, rumorosamente. Poi. Ma no, dai, che giovedì scorso abbiamo anche allietato con musiche esotiche, addirittura dalla Somalia, ma comunque, come dire, morbide. Ma no, anche la Somalia ha il suo bel rumore. Certo, però diciamo che la cacofonia calcolata, scientifica dei passi galore, penso non sia mai arrivata. Stasera passi galore da Washington, insomma capeggiati dal buon John Spencer, lui cresciuto nel New Hampshire e laureando in semiologia alla Brown University e apprendista cineasta. E Washington, che comunque è una città che gli sta molto stretta, e voci, leggende metropolitane vogliono che praticamente abbia poi litigato anche con l'ortodossia hardcore della città, con anche i componenti dei Fugazi, e questo un po' anche l'ha costretto a trasferirsi poi nella megalopoli, nella Big Apple, a New York, e a trovare insomma altri degenerati del punk come lui. Washington sì, è una città che ha una bella scena, però forse un po' troppo catalizzante sull'hardcore, quello dei Fugazi, sì, un'ortodossia abbastanza hardcore. New York è un po' più aperta per certe sonorità più garage, anche se lui comunque ha sempre detto che non fa garage, e quantomeno fa il blues delle caverne, ancora più garage, insomma, se possiamo dire. E passicalore appunto che vengono fuori nella prima metà degli anni Ottanta, no? Insomma, ormai in giro da un bel po'. E quindi parliamo insomma della di partita verso New York. Vabbè, che vogliamo aggiungere? Ma sì, si formano più o meno nel 85, poi si spostano immediatamente a New York e lì ingaggiano poi anche successivamente un'icona della musica newyorkese, Bob Baird, ovvero sia il vecchio primo batterista dei Sonic Youth, che aveva più o meno 10 anni più di loro. Ricordo che i componenti di Passi Galore, che ricordo che vuol dire figa a bizzeffe, detta come va detta, sono tutti giovanissimi, hanno più o meno 20 anni, Bob Baird ha 10 anni più di loro. In più, altra cosa particolare, i componenti sono, oltre a John Spencer, Bob Baird, Julia Caffritz, che era la sua contraltare, e Neil Haggerty, che poi confluirà nei Royal Tracks, ovvero già un progetto parallelo, arrivano addirittura ad avere 4 chitarre, quando anche Wolf si aggiunge, quindi 4 chitarre e batteria, già il tipo di formazione era molto particolare. E sì, come diceva il buon dottor Scarpa, non fanno garage, loro imitano il garage. We'll be right back. Beh, la cacofonia è sempre in agguato con i passi galore. Passi galore qui a Radio Città del Capo, This is not an exit, sono le 21:15, minuti primi, siamo in diretta. Questa sera non vi annoierete, se avrete un minimo di pazienza riuscirete a farvi disturbare da un gruppo che nasce ed è stato ideato per essere disturbante. Come dicevo, dottor Scarpa, l'hardcore era già stato un po' messo da parte da John Spencer, criticato, anche perché l'hardcore stesso c'è poco da fare, verso nella seconda metà degli anni Ottanta annaspava. Beh, ormai diciamo che i botti iniziali erano finiti, quindi comunque si passava ad altre sonorità. Vabbè, comunque l'hardcore rimaneva. Washington è sempre stata la capitale per certi discorsi. Fugazi, niente da dire, insomma, gran bel gruppo, sono andati avanti fino a pochi anni fa, insomma. Però, insomma, Joe Spencer non aveva voglia di far parte di quella cerchia. Lui che praticamente parlava aveva in mente praticamente una musica minimale, ma non nella quantità, ma nella qualità dell'esecuzione. Quindi si sente poi questo qua. E il nome tutelare è sicuramente Capitan Beefheart, anche se comunque mediato sicuramente attraverso l'intellettualismo della No Wave, quella proprio newyorkese. Infatti loro vanno a riproporre quello che passava nella New York delle fine anni 70, Cramps anche, ma vabbè, anche qualcosa di minimale forse nel punk dei Stooges, che venivano da Detroit, vabbè, tra l'altro, ma dei Ramones no, perché comunque loro erano già troppo musicali rispetto ai passi galore, erano troppo orecchiabili. E comunque c'è poco da fare, 10 anni prima, nel 77, il punk aveva raso il suolo più o meno tutto, riportato tutto alle radici e recuperato anche comunque un suono retro, era il suono degli anni 50. Poi di nuovo con il post-punk e la New Wave che abbiamo citato, il suono si è di nuovo evoluto, e per ripartire dai decenni del punk John Spencer fa una operazione di nuovo di radere al suolo tutto quanto, giusto lui appunto che è un laureando in semiotica, poi mollò l'università. Più o meno riuscì a identificare i codici, quali erano i codici più desueti ma anche più riconoscibili del rock, quelli degli Stones, il blues rock degli Stones degli anni 60, i primi Stones Beat. Non a caso i passi galore uscirono con il rifacimento totale in cassetta di Exit on Main Street, Exile on Main Street nella versione originale dei Rolling Stones, uno dei capisaldi, uno degli ultimi grandi rock album fatti dagli Stones. Non si è mai capito se gli Stones si credessero o l'abbiano fatto veramente per ragioni commerciali. Comunque sicuramente un album pietra miliare, loro lo rifecero a modo loro, scarnificandolo e suonandolo alla peggio che si poteva, quando invece gli Stones facevano il loro meglio per suonare meglio ancora anche rispetto ai bluesmen originali. Yeah. Beh, insomma, se le acque della musica americana in questa seconda metà degli anni Ottanta erano un po', come dire, ristagnavano, ci pensarono i Passy Galore a smuoverle. La cosa che probabilmente fece impallidire, anche storcere il naso e anche rigettare i Passy Galore, che erano odiati da parecchi, comunque non capiti, infatti non è che ebbero tutto questo gran successo, comunque tanti non li compresero, ma fu anche una cosa probabilmente voluta, era il loro atteggiamento da idiota nichilista, il fatto di voler ostentatamente suonare male cose che tutti ormai suonavano dagli anni 50. E ciò era abbastanza repellente, già si tacciava di spocchi a gruppi come gli Swans e i Sonic Youth, che comunque avevano un atteggiamento intellettualoide, invece loro no, farsi fare la critica, farsi fare la paternale da gente che si atteggiava a qualcosa di sotto di te, bruciava ancora di più. E poi c'è da aggiungere che praticamente comunque loro dicevano di non avere, insomma, una grande cultura, che insomma, che la loro cultura non valicava l'organo genitale femminile, insomma, addirittura potevano disgustare anche un punk. E insomma, è quello che costituiscono, insomma, il perfetto di antimusica espresso dalla new wave, no? Comunque portate le estreme conseguenze. Yeah. Beh, comunque sia, in questi anni c'erano tantissime band garage, non solo i Rolling Stones erano uno dei riferimenti di John Spencer, ma e oltre ai Cramps, che probabilmente era la punta di diamante, c'erano tantissime altre band, tipo i Misfits, i Flashstones, i Fuzzstones. Potevi tranquillamente andare in qualsiasi locale americano e trovarti catapultato in Happy Days. Questo non era quello che John Spencer voleva fare. Tutt'altro, anzi, e che senso aveva d'altronde fare un'operazione del genere? Ricordo che siamo negli anni Ottanta, quando tutto doveva essere positivo, c'era un'area di positività, c'era il reaganismo, insomma, anche l'hardcore comunque cercava di rispondere con un'etica sua. Il nichilismo totale invece dei passi galore va ben oltre. La perdita di senso della società, John Spencer e compagnia la sentivano bene, una società comunque superficiale, materialista, l'abbiamo detto tante volte in altre puntate e molti altri gruppi lo hanno più o meno tirato fuori. Loro lo tirano fuori in maniera semplicemente al vetriolo, quindi urticante e repulsiva. Un po' come anche gli Stones per davvero fecero all'inizio degli anni 60. Non fu un caso se negli anni 60 c'era un po' il Bartali Coppi, no? Chi ascoltava gli Stones li amava, oppure chi ascoltava i Beatles perché li trovava troppo lascivi, antisociali e repulsivi. La situazione era più o meno la stessa, però portata al cubo, perché non erano più gli anni 60, il sogno hippie era finito da 20 anni, e quindi suonavano addirittura il rock come lo avrebbe suonato un cavernicolo. Il set di batteria era composto anche da latte di petrolio, quindi era tutto molto disturbante, un po' come facevano gli Eyes to Stand e Neubauten, partendo da tutt'altre latitudini e generi, facevano musica industriale, ma penso che anche loro piacessero molto al nostro John Spencer. Girl, yeah! Break down! new sequencing software for BBC Micros and MIDI equipped synths are the latest addition to the ever increasing range of this kind of thing. Passi calore per questa sera, 8 ottobre del 2015, torniamo al 1985 naturalmente, quando vengono fuori i Passi Calore, e poi John Spencer, sappiamo la strada che ha fatto con la Blues Explosion, però lui non aveva dimenticato quel garage minimale e dietro si porta per il tour europeo le Demolition Door Rods. Non so se ricordate questi tre, praticamente due ex spogliarelliste e lui, un pazzo scatenato, che praticamente fanno questo garage molto minimale e se li porta dietro. È stata una stella durata poco, però mi ricordo che praticamente se li portava dietro perché voleva, cioè il trio probabilmente li ricordava molto i Passi Calore. Non so se ti ricordi, Bab, quando... Sì, mi ricordo che anche, penso che la percussionista fosse addirittura cieca, perché mi ricordo che l'accompagnavano sul palco e suonavano in perizoma con le carte da gioco incollate sui capezzoli, questo mi ricordo. E poi era molto divertente perché erano veramente super minimali, ma molto bravi in realtà. Sì, e poi anche loro rifacevano le cover dei Rolling Stones e finivano i concerti con un pezzo dei Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Quindi comunque John Spencer, anche col successo, comunque non si dimenticava quel garage minimale, cavernicolo, insomma, che praticamente l'aveva poi reso famoso al grande pubblico. Grande John Spencer. Yeah. 21:43 minuti primi su Radio Città del Capo. Siete in diretta in modulazione di frequenza 94.7 96.25, oppure siete in streaming se non siete nell'area metropolitana bolognese su rcdc.it. Beh, insomma, spero siate in ascolto perché vi stiamo un po' tartassando questa sera, ma d'altronde ci sembra che questo disco, questi dischi, anche Dial M for Motherfucker, che è il secondo, dopo Right Now, che è stato il primo, entrambi mal registrati appositamente, insomma, fossero comunque un punto di svolta piuttosto importante per questa fine degli anni 80. Il secondo disco esce appunto in 89 e, sorpresa delle sorprese, John Spence, che comunque, appunto, come diceva prima il dottor Scarpa, si è trasferito a New York. New York è più aperta, ma non solo. New York è anche una delle patrie dell'hip hop. E in questo disco cominciano ad affiorare un po' di campionamenti, poi anche nell'EP successivo, che poi magari faremo sentire, cominciano a campionare che cosa? I Public Enemy, i Bomb Squad, di tutto quello che passava per le orecchie, ma lo campionavano per pochi secondi, per poi ripartire con le loro sonorità. Questo in sfregio a tutti gli stilemi, gli stili. In quegli anni, come dire, suonare un certo tipo di musica era una cosa importante. Il crossover stava nascendo, ma non era ancora ben codificato. E comunque era più una cosa californiana. Chi faceva hardcore, faceva hardcore. Chi faceva metal, faceva metal. Chi faceva garage, bene o male, era un gruppo retro. Non è questo il caso. Addirittura, quando uscì questo disco, John Spence, con il suo solito stile, glielo vendettero un po' come... passò un'etichetta un po' più grande, la Mute, se non ricordo male, e fu un po' venduto come qualcosa di più accessibile, grazie anche alla tecnologia migliorata, che perché lo registrarono in Inghilterra in uno studio un po' migliorato. Ma il suo commento stampa fu: i passi galore accessibili grazie alla nuova tecnologia, accessibile il mio culo. Ecco, questo era tanto per far capire l'aria che tirava e quello che John Spence voleva far passare dei passi galore. Corrente della musica occidentale che era passata per Howlin' Wolf, Rolling Stones, Capitan Beefheart, Stooges, Einstein Neubauten, Cramps, Sonic Youth. Quella corrente ricevette un impulso enorme dall'animalesco e analfabeta sub-rock dei Passi Galore. Spencer disassembla e desemantizza il rock and roll, privando il genere di tutti i suoi segni convenzionali e ricostruendo una sintassi basata unicamente sui suoni illegali della sua storia, ovvero sui suoi codici più eversivi. D'altronde il suo vizio pornografico da vecchio scellerato, non tanto vecchio ma probabilmente scellerato sì, conferisce sicuramente un tono bello satanico ai suoni detonanti. La batteria era veramente picchiata su dei lattoni di gasolio. Yeah. 22.02 minuti primi, siete sempre in diretta su Radio Città del Capo, This is not an exit, avete ascoltato tre brani da Dial M for Motherfucker dei Passi Galore, la puntata, la serata dedicata a loro, un disco, un gruppo direi misconosciuto, non so quanti di voi lo conoscano, casomai li conosceste potreste mandare degli sms, abbiamo anche un numero sms, non ce lo dimentichiamo, ma questa sera siamo quasi curiosi di sapere se qualcuno all'ascolto già conosceva i Passi Galore. Il numero è 348-7649-289. Se vi va, se avete qualche idea, se avete qualche testimonianza di Passi Galore, non penso che nessuno l'abbia mai visto in Italia. Fecero un tour in Inghilterra prima della registrazione di Dial M for Motherfucker e lì fu l'inizio della fine. Tanta negatività di quel disco esce da... proprio da quel tour, dalla fine di un gruppo. A un certo momento in mezzo al tour John Spencer decide di terminare l'avventura dei Passi Galore, il suo alter ego Julia Caffritz era totalmente all'oscuro di ciò, anche se probabilmente le tensioni del gruppo erano già sensibili, non riuscirono mai a raggiungere uno status di rockstar e nonostante si atteggiassero anche loro a decadenti, ma insomma non siamo negli anni 60, lei cosa ne pensa Scarpa? Non siamo nel tempo degli Stones dove potevano atteggiarsi a nobili decaduti. Beh, no, sicuramente non faceva neanche parte del personaggio. John Spencer era un anti-eroe, sicuramente, un anti-rockstar. E beh, loro comunque in Europa ci venivano perché comunque, essendo amici degli Essenzenden Neubauten, forse l'unico gruppo europeo, mitteleuropeo, che loro apprezzavano. Erano grandi amici, hanno lavorato anche insieme a Blixa Barked e quindi comunque qualche capatina in Europa quel periodo l'hanno fatta, certo, e forse per il pubblico italiano è stato un po' difficile vederli dal vivo. Insomma, John Spencer che faceva insomma avanti e indietro un po' anche lui con fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti. E... sì, perché questo disco fu registrato metà alla fine del tour in Inghilterra, avevano già prenotato lo studio. Non si capiva quanto senso avesse registrare a quel punto perché avevano già deciso di abbandonare l'avventura. Neil Haggerty aveva già i Royal Tracks, magari poi fare una puntata anche su Royal Tracks, un altro gruppo misconosciuto e molto ostico, più ostico anche dei Passi Galore, che comunque sfruttando le sonorità appunto degli anni 60 risultano comunque orecchiabili, cose che i Royal Tracks non facevano. Però comunque riuscirono a produrre qualcosa di innovativo, i suoni erano sempre, non per la tecnologia come dice John Spencer, ma perché avevano idee, nonostante il malessere che c'era all'interno della band. D'altronde erano quattro personaggi piuttosto, come dire, con un ego piuttosto debordante e si torna sempre agli Stones, anche Keith Richards e Mick Jagger penso fossero due personalità notevoli, che si atteggiarono negli anni cambiando atteggiamenti a seconda delle mode, anche fecero anche loro album diversi fino almeno agli anni 70, passando anche per la psichedelia. Però i Rolling Stones non hanno mai messo nel gruppo le fidanzate varie, invece noi sappiamo che Cristina Martinez insieme a John Spencer, insomma, e anche Royal Tracks hanno avuto queste storie un po', no, di delle coppie nella vita che poi anche artisticamente invece i Rolling Stones hanno tenuto ben distante nel retropalco molto più furbi forse. We'll be right back. Ero incazzato a proposito di un sacco di cose. C'era così tanto rock and roll merdoso che mi faceva incazzare e i Passi Galore davano un sacco di calci contro quel tipo di rock and roll. John Spencer Dixit. Con questa Dick Johnson che ho letto da qualche parte John Spencer si inventò quando in tour con i Tad in giro per gli Stati Uniti. I Tad erano un gruppo grunge di boscaioli, uno dei primi gruppi grunge, quindi siamo nel 89-88. Scoprì che questo tal Dick Johnson era il loro roadie, ma soprattutto aveva come unico e principale lavoro quello di procurargli il fumo in qualsiasi città si fossero trovati. E con questa novella della buonanotte vi salutiamo, siamo alla fine di questa puntata di This Is Not An Exit. Ci sentiamo di nuovo giovedì prossimo, sempre in diretta dagli studi di Radio Città del Capo, con un nuovo argomento, nuova musica, magari vi assorderemo un po' meno, o magari no. Ma vedremo, studieremo come assordare le persone in settimana. Ci specializzeremo. Intanto buonanotte a tutti e alla prossima. Buonanotte. later.